suppongo che abbiate tutti seguito con passione le vicende della riforma del finanziamento pubblico dei partiti. È un argomento importante, poi in questi tempi di scandali, quando la gente ha solo l'idea di finanziare i partiti gli viene la bava alla bocca e la schiuma alle labbra. Beh, la situazione è ancora un po' fluida, ma da quello che ho capito sembra che al posto dell'elargizione diretta prevista dalla legge attuale, su cui peraltro incombe un referendum che le lascia pochissime speranze di sopravvivenza e che comunque non piace più neanche ai partiti perché ha dei risvolti sgradevoli, prevedendo per chi non si attiene alle sue progressatissime norme l'ipotesi di reato penale, al posto dell'elargizione diretta dunque sarà istituito un fondo per la democrazia. Fondo per la democrazia finanziato mediante un insignificante prelievo dal gettito dell'IRPEF, una percentuale minima di cui il cittadino non si accorgerà nemmeno, mi sembra che sia lo 0,5 per mille o giù di lì. La quota veramente non è stata ancora definita, ma è la media tra lo 0,1 per mille richiesto dagli onesti liberali e lo 0,9 preteso dagli avidi socialdemocratici, che sono i due partiti più noti per lo 0 con cui svolgono il gioco delle parti a favore di altri, per cui se gli hanno fatto chiedere lo 0,1 agli altri e lo 0,9 ai primi, è lo 0,5 come risultato è altamente probabile. Beh, pochissimi tra quanti hanno dato la notizia si sono presi da briga di fare un calcoletto elementare che gli avrebbe portati a scoprire che la cifra in questione ammonterebbe a un migliaio abbondante di miliardi invece dei 150 distribuiti attualmente, e certamente è una riforma, ma come riforma moralizzatrice ammetterete che non è mica male, tanto più che per ovvi motivi di equità non sarebbe lecito sottrarsi a prelievo, come oggi non è lecito sottrarsi all'analogo prelievo a favore della Chiesa Cattolica o delle organizzazioni similari. Al massimo, sembra, si potrà decidere, indicandolo su 740, a chi destinare il proprio obolo forzato, cosa che indubbiamente aiuterà molto a realizzare quella schedatura generale dei cittadini che da sempre hanno i voti di qualsiasi regime. Pazienza, direte voi, un modo per ribellarci lo troveremo, magari non andiamo più a votare. Errore, errore gravissimo. Il voto in Italia è un dovere civico e se seguiste come a noi capita di fare la stampa anarchica, però le notizie sono state, notizie sparse sono apparse anche altrove, se seguiste la stampa anarchica scoprireste che si sono molto infittiti i casi di cittadini che non essendo andati a votare l'ultimo 5 aprile si sono visti convocare dai carabinieri e intimati di fornire le giustificazioni del caso. D'accordo, d'accordo, anche la legge elettorale è in corso di riforma, ma se riuscirete a trovare in tutti i progetti di riforma un qualsiasi comma o paragrafo o articolo che abolisca le norme in base a cui chi non ha votato è convocabile dai carabinieri e schedabile con annotazione sul certificato giudiziario, siete molto più bravi di noi. E in fondo, detto tra di noi, anche chi si azzardasse a non indicare su 740 a quale partito o a quale chiesa devolvere il suo zero e tanto per mille, dovrebbe soggiacere un provvedimento analogo. Poche balle. Se il voto è obbligatorio, finanziare i partiti non può che esserlo altrettanto, se no per che partiti potremmo votare? E noi viviamo in uno stato di diritto e chi non adempie agli obblighi in uno stato di diritto sa che dovrà affrontare le conseguenze dovute. La classe politica sarà allo sbando, ma i carabinieri e la magistratura vegliano sempre. Ultimo problema però, possiamo davvero fidarci della magistratura? No. Sembra che nel corso della sua trasmissione a Canale 5 ieri, il celebre Sgarbi abbia duramente attaccato il giudice Di Pietro. Gli ha detto chiaro e tondo che non sa neanche parlare l'italiano. Ora, non è che noi consideriamo il giudice Di Pietro quella specie di eroe popolare che è per Giorgio Bocca, ma da Sgarbi questa non ce la saremmo proprio aspettata. E non tanto per la banalità dell'argomentazione, perché quella di uso improprio della lingua italiana è l'imputazione classica di non sa che pesci pigliare, su via, rientra nella categoria dell'accusa di classe, perché in fondo si risolve un'imputazione di appartenenza a una categoria socialmente inferiore, che non è bello oggi dire, ma ce ne siamo stupiti soprattutto per la sua inopportunità, che un inquisito, Sgarbi nel suo piccolo è un inquisito, che un inquisito attacchi un giudice su via è poco fine, è controproducente quasi, guardate cosa è successo al povero Craxi di nuovo. È anche vero che in fondo È anche vero che in fondo lo Sgarbi non aveva grandi possibilità di scelta, fine o non fine, producente o non producente. I servi non possono che obbedire e qualcuno deve avergli comandato di dire qualcosa, qualsiasi cosa, ma in fretta. Se si fanno difendere da Sgarbi a Canale 5, consoliamoci, devono essere proprio ridotti alla frutta. Fra le proposte dei vari partiti in ordine al finanziamento pubblico, non vi sarà sfuggita quella del Partito Liberale per una caratteristica a dir poco unica. Infatti la proposta dei liberali è l'unica che prevede che dal 7,40 del contribuente il contribuente di turno possa optare non per uno partito, ma per più di uno. Beh, ecco almeno qualcuno di non protervo, no? Il vero democratico così alla fame che accetta nell'ordine di beccata di mangiare per ultimo, purché si mangi.